Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Su, vieni, vieni. Porta che ti fa bene l'acqua. Con questo caldo poi. Ah! Vieni. Ti fa proprio bene quest'acqua. Su, bello. Nuota un po', vediamo cosa sai fare. Bravo, così. Dammelo, devi darmelo. Questo cinghialetto tu l'hai rubato, perciò dammelo subito, è mio. Aurelio! Aurelio! Dammelo subito, dammelo. Sei un ladro! Elia. Che è successo? Al fiume ha litigato col signorico. Il figlio del giudice voleva portarmi via il cinghialetto. Mettilo dentro e digli che se lo venga a prendere qui, se ha coraggio. È una storia struggente quella che racconta Grazia Deledda nella sua raccolta Chiaroscuro, il cinghialetto, un racconto del 1912. Ve lo sintetizzo in un minuto, visto che mi serve per introdurre quello che è l'argomento di cronaca. Una cinghialessa una mattina dà alla luce 7 cinghialetti. Uno di questi appena nasce vede i più bei colori del mondo, diceva Deledda, il verde, il bianco e il rosso sullo sfondo azzurro del cielo. Quindi era un cinghialetto già con una predisposizione patriottica. Tanto che appena partorito e appena la giovane cinghialessa ebbe finito di lisciare e leccare i 7 piccini, attaccate le sue mammelle dure come ghiande, l'ultimo nato piglia e scappa. Scappa e lo raccatta Pascaleddu. Pascaleddu è un poveraccio, un pastorello. Il padre sta in galera perché aveva raccolto la carogna di una pecora morta per farla mangiare alla famiglia, è stato arrestato per furto e sta in galera. Pascaleddu, con un altro con cui giocare, si innamora di questo cinghialetto e cominciano a vivere in simbiosi, come fosse un cagnolino, un gattino. Per giorni e giorni furono veduti sempre assieme. Il cinghialetto annusava i piedini sporchi del suo amico e l'amico gli lisciava il pelo dorato e morato e introduceva il dito nell'anello del suo codino. Infilava il dito nella coda, erano felici. A un certo punto, quello che avete sentito raccontato in questo film che rese celebre alla RAI degli anni 70, Il racconto di Grazia Deledda, ebbe la sfortuna di incontrare Signoriccu. Signoriccu è il signorino ricco, è un pezzo di merda allucinante, figlio del giudice che ha messo in galera il padre del povero Pascaleddu, che appena vede sto poveraccio che c'era solo un cinghiale, l'altro era ricchissimo, lo vuole, lo pretende. E fa tanto che alla fine la madre, che poverina, si manteneva lavando i panni sporchi dei carcerati, pensate che schifo, deve darlo a Signoriccu. E il Signoriccu si prende sto cinghialino. Che ci fa? Da quando il cinghialetto passa dalla vita felice con Pascaleddu, va a casa del Signoriccu, biondo, bello, sempre coperto di raso, di sete, una casa piena di tutto, pieno di serve, di servi, grasso, pasciuto, stronzo. Infatti Signoriccu dice, quando il cinghialetto va da Signoriccu, comincia a conoscere gli strazi di una schiavitù dorata. Quante volte Signoriccu fu il punto di strangolarlo, quanti calci dai bei piedi attorno ai quali ondulava il falpalà della vestaglia azzurra, quante volte la serva gli disse: lo arrostiremo il giorno della festa di Signoriccu. E infatti arriva il giorno del compleanno di Signoriccu, ve la faccio breve, che come vuol dire che finisce. Signoriccu entra in cucina, trova la pistola del guardiacaccia che aveva nascosta lì mentre toccava il culo a una serva, prende la pistola, prende il cinghialetto, dice: adesso vieni con me. Se lo porta nell'orto, dice: stavolta è per davvero, visto che gli tirava di tutto. Sta fermo e una nuvoletta viola avvolge il cinghialetto che stramazza, chiude gli occhi, ma c'ha questa botta di culo che prima di morire vede per l'ultima volta i più bei colori del mondo: il verde della quercia, il bianco della casina e il rosso del suo sangue. Ecco, questa è la storia struggente raccontata da Grazia Deledda di un povero cinghialetto, uno dei 7 figli di una cinghialessa, che ebbe la fortuna o la sfortuna di nascere in Sardegna nel 1912 e si fece un po' di bella vita finché se lo teneva il pastorello, e alla fine lo ammazzarono una pistolettata e ci fecero un bel arrosto il giorno del compleanno di Signor Ricco. Perché vi ho raccontato questa storia struggente di una cinghialessa con 7 cinghiali? Perché la cronaca ci riporta prepotentemente alla memoria questo racconto con un fatto accaduto a Roma l'altra sera. E fallo sotto gli occhi di tutti. Guardate, l'iniezione letale, guardate. Davanti ai cittadini. Guarda tuo figlio in faccia, bastardo. Dai, dai, fallo, fallo, dai. Voglio vedere che cosa dice dai, a tuo figlio. Dai, vogliamo quando vedere. Gli faremo vedere le foto. Questa è quella che vi dava tanto fastidio, eccola, l'avete ammazzata, bravi. Complimenti. Senza nessuna remora. Tanto sono solo animali, no? Guardate, guardate, quello c'ha ancora il dardo conficcato. Guardate il dardo conficcato. Avete ucciso una madre! Una madre morta con i bambini intorno che la cercano, che piangono, guardate. Con i dardi conficcati nello stomaco. Di fronte ai cittadini! Che schifo! Che schifo! C'è sempre una cinghiala con 7 cinghialini, come nel racconto di Grazia Deledda, solo che questa cinghiala nel mese di ottobre del 2020 ebbe la sventura o l'avventura, che ne sai te quale sarebbe stato il suo destino, di entrare in un parco giochi di bambini una sera a via Gregorio VII, che è una strada di Roma nemmeno lontano da dove sto trasmettendo ora. Naturalmente, cosa si fa quando si vede un cinghiale femmina con 7 figli in un parco giochi di bambini? Si chiamano le forze dell'ordine, perché non so se avete mai visto un cinghiale in azione, ma chi va a caccia o chi frequenta i boschi sa che se il cinghiale incontra un cane, il cane si ritrova con le budella fra le zampe. Infatti i cacciatori si portano dietro ago e filo per ricucire i loro cani quando incontrano il cinghiale, perché il cinghiale squarta, e soprattutto se hai figli vicino li difende come nella sua natura. Parlavo questa mattina con un'amica, nota cavallerizza, e le ho anticipato questa trasmissione. Dice: sì, a me una volta un cinghiale mi ha sventrato un puledro. Quindi il cinghiale comunque fa il suo lavoro con le sue zanne, perché è una fiera dei boschi e fa questo. Oggi i cinghiali entrano in città tirati dalla spazzatura, dal pattume, da una serie di frangenti. A Roma si vedono pascolare cinghiali come una volta si vedevano soltanto gabbiani o piccioni. Solo che i cittadini si sono subito radunati in quel giardinetto, hanno cominciato a inveire contro le forze dell'ordine che in realtà stanno difendendo la salute dei loro bambini, e hanno cominciato a mettere su questo tipo di protesta, minacciando le persone che stanno facendo un lavoro che probabilmente non è nemmeno il più gradito dei loro lavori. Li hanno prima addormentati con un dardo soporifero e poi li hanno abbattuti e portati via, come penso che richieda il protocollo in queste situazioni. E questo ha scatenato una protesta pubblica. Ancora oggi leggo nei social dell'orribile eccidio che è stato compiuto nel giardinetto di via Gregorio VII. Ma questo è accaduto l'altra sera, la gente urlava, ancora oggi scrivono al sindaco, al presidente della regione: vergognati, cosa hai fatto? Hai ucciso i cinghialetti davanti a tutti, davanti ai cittadini. Ma i cittadini potevano anche non andarci, secondo me, lì a guardare lo spettacolo, lasciare fare alle forze dell'ordine il loro lavoro, che fa parte, secondo me, dei compiti di ordine pubblico. Ma non voglio entrare in merito, voglio solo dirvi che questo è accaduto una sera a Roma mentre noi stavamo qui ad aspettare il presidente Conte ci dicesse cosa dobbiamo fare con il Covid. Vi faccio ascoltare ancora. Lì c'è un cadavere, i bambini se ne vanno in giro con le frecce conficcate nello stomaco, ci sono questi tizi che vanno in giro con le siringhe per finirli. Sembra un film dell'orrore, ma è la verità. Siamo a Roma, siamo a Roma e lo possono vedere tutti questo schifo. Questo è il modus operandi di queste istituzioni, ecco cosa fanno, ecco come fanno. Uccidono di fronte, così, palesemente, alla luce del sole. 800 24 00 24, quello che questa mattina chiedo al pubblico: se avete mai incontrato cinghiali, avuto voi informazioni, notizie, esperienze, racconti di persone che incontrano cinghiali? Perché onestamente oggi vorrei riflettere innanzitutto su questo episodio, ma poi un po' sulla nostra deriva della percezione comunque che abbiamo della vita, della morte, del valore della vita, delle varie composizioni di esseri che popolano il mondo. Perché probabilmente le persone che qui strillavano e urlavano saranno super vegetariani e vegani, ma se noi ci ponessimo questo problema ogni volta che mangiamo un panino al salame, ogni volta che mangiamo prosciutto e melone, evidentemente dovremmo cambiare radicalmente quelle che sono le nostre abitudini, la nostra concezione del mondo. Io sono molto rispettoso delle idee altrui, delle convinzioni altrui, ma qua andiamo un po' oltre. Questo tipo di protesta organizzata va un po' oltre. Mi domando, c'erano alternative? Qual era l'alternativa di questa cinghialessa con 107 cinghialini? Cosa poteva fare di diverso? Nel frattempo vorrei che, chiamando all'800 24 0024, mi esprimeste il vostro parere, perché ci sono delle variazioni profonde nei comportamenti, nelle maniere di considerare alcuni fenomeni, e dal 1912 a oggi, grazie ad Eledda, ha scritto quel racconto, le cose sono cambiate, perché doveva dimostrare una sorta di conflitto sociale fra cui il ricco, infame, grasso e viziato figlio del giudice, che disponeva a suo piacere dell'unico trastullo del povero pastorello, che aveva anche il padre in galera, messo da quel giudice lì, che doveva decidere della sua serenità. Allora, abbiamo innanzitutto Carlo da Genova. Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Primo ascoltatore, niente. Cosa ne dici di questo episodio, Carlo? Ma guarda, questo episodio, io abitando a Genova, e Genova è stata una delle prime città invase dai cinghiali, ormai incinghialate, no, sì. Sì, siamo incinghialate, non fa più neanche notizia, perché sono fermo in questo momento con la macchina e ne vedo 13 forse qua sotto nel fiume. E ormai fanno parte della rete. Dove urbana. Li vedi 13 cinghiali? Dove? Vicino a Genova? Sei proprio sotto, sì, Genova? No, dentro Genova. No, sono proprio dentro Genova, nel fiume Bisagno. Ce ne sono circa una cinquantina. Abitano qui ormai in pianta stabile. La popolazione si sta costruendo delle reti. Hanno fatto una sorta di colletta nella zona di via Piacenza. Hanno messo le reti in volontariato, delle reti nelle ringhiere per non farli andare nella strada. Perché vedete, esiste questo problema, no? Tutti si scandalizzano adesso perché vedono uccidere i cinghiali. Però purtroppo i cinghiali, quando vanno nella strada, uccidono le persone, nel senso che ci picchi dentro con la moto, con la macchina, e tutte quelle persone di Roma, io sono un cacciatore, premetto, sono un cacciatore, vivo in mezzo ai cinghiali appena alle porte di Genova da 30 anni. Quindi tu sai che il cinghiale comunque è selvaggina, diciamo che se può si difende, se è attaccato, se è disturbata. Sì, ma non è tanto quello, vedi, questo qua forse è anche un po'... Ieri eravamo a caccia e ci hanno ucciso un cane, no? Come prima citavi. Ma questo fa parte un attimino dell'animale, dell'indole dell'animale. In città non è che siano particolarmente aggressivi. Se tu gli dai da mangiare, questi cinghiali non attaccano nessuno. È il problema... Cioè sono immaialiti praticamente, sono come i maiali domestici. Qua sono nel fiume, la gente li butta da mangiare, ci sono due o tre mercati rionali vicino, li buttano alla fine della giornata, li buttano quello che avanza dei tavoli, queste cose qua, loro mangiano e stanno tranquilli. Il problema è che qua non ci si rende conto che gli animali selvatici nell'ambito della città diventano problematici, e l'unico modo per levarli è ucciderli, perché questi che non capiscono il problema, che probabilmente non hanno mai capito, non sono mai andati oltre, l'urlare, no? E il mettere il gazzetto con le magnettine e i palloncini, non capiscono che gli animali devono essere, le specie devono essere controllate. Prima o poi succederà anche con i cervi, che in Italia stanno aumentando in maniera dismisura, perché i cervi andranno a invadere i pascoli degli animali domestici, come le mucche, e fanno un sacco di danni. Però il cervo magari presenta meno pericoli, perché il cervo più ti incorna, il cinghiale ti squarta. No, sbaglio, il cervo non ti incorna, il pericolo del cervo non è essere incornati, che è un fatto remoto, è picchiarci dentro con la macchina, ci uccide. Ah, quello andrà. Perché il cervo ha due quintali, ci picchi dentro con la macchina, oppure non dico con la moto, ma con la macchina stessa ci uccidi se picchi dentro un cervo. Fermo un attimo, Carlo, noi abbiamo un esperto che ci parlerà fra un istante di queste cose. Poi prima voglio sentire Savina da Como, perché voglio sentire una persona che ci spiega esattamente i termini di questo problema, che avverrà sempre di più nelle città. Non è facendo i sit-in per salvare il povero cinghialetto che si risolve il problema. Savina da Como. No, io sono d'accordo che li hanno abbattuti, anche perché sulle nostre strade del lago qui quanti incidenti succedono con i cinghiali, che ci vanno di mezzo sono gli automobilisti. Dopo che poi gli animalisti insorgano, che non mi sembra logico, insomma, tutto sommato. Quindi hanno, lei ha esperienza di passaggi cinghialeschi. Massimo da Padova, vedo che i cinghiali hanno altro che i barconi, hanno invaso l'Italia, veramente nessuno però ci aveva mai fatto conto. Massimo da Padova, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo solo dire che una sera di novembre, un po' di nebbia, improvvisamente in una strada di periferia è sbucato un cinghiale enorme, devo dire enorme, con dei cinghialini. Allora, io dico la verità, se mi avesse preso la macchina, probabilmente mi avrebbe rovesciato l'auto. Non sto scherzando, era enorme. Noi abbiamo un problema enorme qua sui colli padovani. Quindi io in qualche modo voglio anche lanciare un allarme, perché se attraversa la strada di una persona che sta guidando un'auto, succede finimondo. Quindi... Allora io mi fermo, grazie Massimo, mi fermo un minuto. Ho appena iniziato la trasmissione, ho già avuto 3 testimonianze da 3 luoghi diversi d'Italia in cui esiste comunque l'emergenza cinghiali. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo con il nostro ospite. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog 800240024. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonti che mi segue da Roma, e vi leggo la notizia che la triste vicenda della famigliola di cinghiali narcotizzati uccisi a 2 passi dal Vaticano è arrivata in Parlamento. La senatrice di LeU, Loredana De Petris, del gruppo misto, presidente del gruppo misto, reputa il gesto gravissimo, di una vigliaccheria inaudita, un gesto sul quale si dice si è evidentemente preferito ricorrere alla via più facile, e annuncia un'interrogazione parlamentare su questo evento. Sono pieno di telefonate, di segnalazioni da tutta Italia di persone che hanno avuto incontri o problemi da cinghiali, però prima volevo un parere informato rispetto alle fattispecie operative quando accade un fatto del genere, cioè che dei cinghiali sono stanziali in un posto frequentato da esseri umani, ma soprattutto da bambini. Andrea Monaco, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. Andrea Monaco è un ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ha dato per scontato che sicuramente non è un bello spettacolo vedere delle persone che ammazzano i cinghialetti, per chi non è abituato e tutto, ma esiste un protocollo operativo in situazioni come queste? Quando qualcuno avverte la polizia, dice guarda, ci sono dei cinghiali in un parco pubblico, come bisogna procedere? Diciamo, a Roma esiste un protocollo, da altre parti ci sono altre soluzioni, in alcuni casi con un protocollo, in altri casi con delle indicazioni di natura principalmente tecnica, però a Roma direi che la situazione è molto strutturata, le istituzioni a vario titolo interessate, la regione, il comune di Roma, la Roma città metropolitana, nel 2019 hanno sottoscritto sotto l'egida della prefettura di Roma un protocollo d'intesa in cui hanno scritto nero su bianco che cosa si deve fare in queste situazioni, anzi in tutte le possibili situazioni che si presentano. Ci si possono presentare di fronte, perché non ci dobbiamo dimenticare di una cosa essenziale, che è il punto fondante del protocollo ma anche della discussione, che la presenza di animali come cinghiali all'interno di un ambiente urbano è del tutto fuori luogo. Noi stiamo parlando di fauna selvatica, non stiamo parlando di animali domestici, e stiamo parlando di rischi potenziali e reali di aggressione per le persone e per gli animali domestici dei cittadini. Stiamo parlando di rischi di incidenti stradali. 3 anni fa a Roma c'è stato, in centro a Roma, addirittura uno scontro con un morto. E stiamo parlando di rischi per la trasmissione di malattie a persone e ad animali domestici. Quindi questo è il punto. Gli animali. Poi in un parco giochi di bambini è ancora più, diciamo, pericolosa la presenza di una cinghialessa coi cuccioli. È assolutamente pericoloso, e quindi io non ho dubbi, ma non è un problema di dubbi. Le istituzioni che hanno agito in quel modo hanno agito correttamente e soprattutto l'hanno fatto coerentemente con quanto previsto dal protocollo, che è un protocollo disponibile a tutti, che tutti quanti possono vedere. Cioè, l'hanno narcotizzati e poi abbattuti. Li hanno narcotizzati e poi li hanno soppressi. Tra l'altro, diciamo, le operazioni che vengono fatte anche, come posso dire, sotto copertura tecnica, perché ISPRA ha fornito le indicazioni tecniche con tutte le possibili soluzioni che si possono mettere in campo. Le soluzioni tecniche, le linee guida tecniche fornite da ISPRA sono allegate al protocollo, e quindi si sta operando nell'alveo della norma e della tecnica. È chiaro che certe scelte e anche quindi certe azioni che ne conseguono sono, nessuno le vorrebbe prendere, sono necessarie. Definirlo un atto di vigliaccheria inaudita, vigliacco perché vigliacco, uno che salvaguardia la salute dei cittadini, quale potrebbe essere? Vedo che tutti mi stanno scrivendo, molti mi stanno scrivendo, naturalmente adesso daremo voce anche al settore, diciamo, di difesa dei cinghiali, sennò sembra che faccio parlare soltanto le persone che hanno problemi con i cinghiali. Vediamo un altro punto di vista, poi vediamo se Andrea Monaco me lo riesce a commentare. Stefano da Catanzaro, buongiorno. Salve. Allora, dunque, io dico sempre secondo me. Io sono premetto che sono un animalista vegetariano. In questo caso, considerando la tecnologia di cui disponiamo, penso che si sarebbe potuto, invece di sopprimere gli animali, trasportarli nel loro ambiente naturale, in un bosco da dove provengono. Poi, in generale, voglio dire che secondo me l'uomo non è, ormai siamo in una società in cui non è più necessario mangiare gli animali, perché non siamo una tribù selvaggia che non conosce l'agricoltura. Sì, ma questo però, scusi, non è che la voglio è un altro settore, lei ha le sue convinzioni lecite, magari ne parliamo un'altra volta. Considerate che non sono stati abbattuti per mangiarsi, sono animali selvatici che per una serie di circostanze hanno invaso la città. Lei dice, come stanno scrivendomi tanti, perché non li hanno narcotizzati e riportati nel loro habitat. Andrea Monaco, come si risponde a questo tipo di, diciamo, proposta? Che mi sembra che la stessa che anima l'interrogazione parlamentare, si dice una vigliaccheria inaudita, c'erano altri sistemi. Quali sono gli altri sistemi? Sì. Allora, una cosa che sicuramente non possiamo fare è quella di, una volta catturati, rilasciarli in natura, nei boschi, nelle ambienti naturali da cui provengono. È vietato su tutto il territorio nazionale ed è vietato a seguito delle criticità enormi che questa specie negli ultimi decenni ha provocato in termini di incidenti stradali. A parte, ma scusi Andrea Monaco, visto che abito a quelle parti, sì. Questi vengono dal parco di Montemario, che è pieno di cinghiali, che sta proprio dietro la zona dove l'hanno trovati. Si sa perché Piazza Le Clodio camminano tranquillamente come se fossero gattini. Questi, diciamo che sicuramente gli animali che stanno in quella parte di Roma frequentano Montemario, ma questi sono animali che sono stati attratti verso la città dalle zone naturali, agricole o non, che stanno attorno a Roma. Roma è una città che è particolarmente, come anche Genova, particolarmente esposta alla penetrazione di questi animali, per tanti motivi, perché questi sono animali che dentro la città si sentono sicuramente più sicuri che fuori la città. Fuori ci potrebbe capitare che qualcuno li spari durante l'attività di caccia, potrebbero anche incontrare un predatore che mette a repentaglio la loro vita. In città stanno tranquilli, in città trovano cibo in abbondanza, che è il cibo che raccattano vicino ai cassonetti, cassonetti certo. Talvolta, ma è anche il cibo che qualcuno gli fornisce volontariamente, e questo è un passaggio importante. È sbagliato pasturare i cinghiali? È assolutamente sbagliato, è frutto di una visione che è una visione umanizzata. Qualche commento di quelli alla serata, se fossimo andati avanti con la registrazione, lo diceva: noi li abbiamo visti dentro, li abbiamo accuditi, li abbiamo portato da mangiare. Ecco, è proprio lì il passaggio, cioè trattarli come umani o come animali domestici significa abituarli alla nostra presenza, significa di farli dipendere da noi, significa in ultima analisi porre fine alla loro vita libera. E io non credo che chi è portatore di queste sensibilità, così attente anche alla qualità della vita animale, voglia questo. No? Quindi la soluzione prospettata e praticata è l'unica possibile, non si possono rilasciare. Se anche come qualcuno ha prospettato, le associazioni animaliste, cercando di trovare soluzioni alternative, hanno provato a proporre di prenderli e metterli in un recinto, va bene, questa è una soluzione estemporanea che poteva andar bene per 5 animali vicino al Vaticano. Ma quanti ce ne sono dalle parti di Roma? Avete fatto un calcolo più o meno? No, è molto complicato perché è una situazione estremamente dinamica. Noi pensiamo che il contesto urbano sia frequentato da un numero di animali che è nell'ordine delle centinaia. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi in prospettiva dobbiamo pensare a soluzioni che siano in grado di reggere le decine di interventi a Roma, le centinaia di interventi nelle altre città italiane, mi viene da dire le migliaia o le decine di migliaia di interventi su tutto il territorio nazionale. Guardi Andrea Monaco, io ho telefonate da Terni, Novara, Milano, mi stanno arrivando telefonate da tutta Italia. In tutta Italia c'è il problema comunque dei cinghiali che invadono gli spazi urbani, quindi mi sembra di capire, non è soltanto la cinghialessa con 7 cinghialini che possono anche farci tenerezza, che stanno al parchetto dove sono i bravi cittadini che danno tutte le sere da mangiare al cinghiale. Il problema mi sembra che sia un pochino più grosso. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, stiamo parlando del problema dei cinghiali in Italia, partendo da un episodio che ha gettato sconcerto, tumulto, interrogazioni parlamentari, di 7 cinghiali abbattuti in un parco pubblico per bambini a Roma, che, come abbiamo appreso dal nostro ospite ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, chi ha operato in quel caso ha operato secondo un protocollo condiviso, scientificamente testato. Non c'era altro da fare, non si potevano mettere da altre parti, andavano abbattuti. Però vi faccio sentire qualche altra telefonata in giro per l'Italia. Efrem, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io posso portarvi la mia personale testimonianza, che facendo anche il tassista, tra l'altro abito a Verbania, in prossimità del Parco Nazionale della Val Grande, che è un'area wilderness, se non ricordo male, 112 km quadrati, quindi molto, molto vasta. Mi sentite? Non vi sì, sento sì, l'ascolto, sto sentendo. Andiamo al punto, però cosa è accaduto in questo posto? Oh niente, andando a lavorare la mattina presto, attraversando un trattino di parco, ho letteralmente distrutto il mio taxi contro un cinghiale che praticamente si è manifestato davanti. E non ultimo è un incidente mortale in autostrada 26 qualche settimana fa, dove hanno perso la vita 2 persone, proprio perché questa invasione di cinghiali. Ma non è solo il problema dei cinghiali, è anche quello degli ungulati in sé. Gestirli è veramente complesso, anche perché ci diceva il nostro ospite, stanno arrivando anche i cervi, quindi fra un po' sarà anche il problema dei cervi. Assolutamente, ho incontrato anche i cervi, come ho visto, ho incontrato di tutto su quelle strade, ma il problema di fondo è che i cinghiali sono estremamente prolifici e non hanno chi li sovrasta di contrasta, che ci vorrebbero i lupi, ma dopo avremo è il lupo problemi. Sì, ma il lupo ce ne stanno pochi, sono super protetti. Il lupo è l'unico predatore che attacca anche il cinghiale. Pasquale da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, ascoltato con attenzione la chiamata del taxista e posso confermare, anch'io sono in questa zona qui e lo faccio anche di lavoro, posso confermare quello che ha appena detto il signore lì, abbiamo avuto un problema con 2 ragazzi. È una guardia forestale provinciale, leggo. Io sono della provincia, sì. Qua di Novara, faccio servizio qui. Dispiace molto per quello che è accaduto nel parco vicino al Vaticano, come ho sentito in questi giorni. Però il protocollo secondo me è stato rispettato alla grande. Magari l'unica cosa che potevano fare in più era magari recitare un'aria, tenere lontano la gente, non far vedere uno spettacolo così ai bambini, e la cosa si sarebbe addolcita leggermente un po' di più, non ci sarebbe stato tutto. Però posso anche capire che non è che i cinghiali le sa benissimo come corrono, se bisognava mettere in sicurezza la zona non è che bisognava aspettare, si poteva aspettare di mettere intorno i lenzuoli per non farlo vedere ai bambini, bastava che i bambini non li facessero stare lì i genitori, scusi, ma mi sembra molto più logico che la gente non tiene i bambini a vedere questo spettacolo. Manuela Laterni, velocemente. Sì, io anche diciamo sono a favore dell'abbattimento, perché purtroppo un mese fa un nostro conoscente con la moto è morto proprio perché ha avuto un incidente col cinghiale, quindi da noi in Umbria è proprio una maledizione quella dei cinghiali, che provocano danni non solo alle macchine ma anche all'agricoltura. Quindi... Benissimo, ho fatto un'altra carrellata e telefonate, sono nell'ordine diciamo che noi l'abbiamo proposte, questo dicono le persone. Torniamo a Andrea Monaco, ricordo ricercatore dell'ISPRA. C'è un problema secondo me, Andrea, che bisognerebbe fare una campagna di informazione che tenga anche conto di tutte le sensibilità, però spieghi il problema nella sua essenzialità, perché oggi ancora vedo su Facebook, anche persone conosco, amiche, messaggi indignati al sindaco, al presidente della regione, assassini. Non è che si compie un assassinio o un eccidio, si compie un'operazione per mettere in sicurezza i cittadini. Non si riesce a farlo capire questo con i termini giusti anche chi con pieno rispetto non mangia la fettina, la bistecca e la salsiccia? È una grande sfida anche dal punto di vista della comunicazione, credo che insomma su questo entrino in gioco anche i media, no? Perché secondo me aiutano con l'informazione corretta, più netro possibile, secondo me, a creare il contesto giusto anche per un dibattito che non sia diciamo troppo incentrato sull'emotività, perché è proprio questo il punto, cioè l'emotività non è foriera di buoni esiti. Noi purtroppo anche di fronte a delle scelte così difficili da fare, perché nessuno di noi le vorrebbe fare. Ma certo, non credo che sia un divertimento per i vigili fare quel tipo di lavoro. Assolutamente. Ma io faccio una domanda soltanto a chi mi ascolta. Ma se ci fosse stato un bambino aperto come una sardina in scatola in quel parchetto, oggi cosa staremmo a dire? Capito? Staremmo a dire che non hanno fatto il loro dovere. Loro hanno fatto, secondo me, quello che dovevano fare, esattamente. Poi che ci sia un dibattito aperto sulla liceità o meno di mangiare gli animali, questo sta bene. Ma secondo me la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini stanno al primo piano, come ci ha giustamente spiegato Andrea Monaco. Alla prossima. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.